Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchiesi, ricordo Italia in controluce tutti i giorni a quest'ora, l'approfondimento del giornale radio sui fatti principali, sul fatto principale della giornata. Per noi oggi il fatto riguarda la polemica sulle novità annunciate dal ministro Francesco Profumo, perché partono da oggi i test per l'ammissione all'università, oggi il turno di medicina di odontoiatria, poi domani il test di ammissione in medicina in inglese e così via. Qui con me Piera Ceci, che come sapete segue per Radio 24 le vicende legate alla scuola. E allora, perché tutte queste polemiche ci sono state? Sì, Daniele, le polemiche ormai sono anni che ci sono. Naturalmente le associazioni studentesche vorrebbero che venissero abolite e le loro obiezioni sono sia sul merito che sulla forma. Comunque oggi, come dicevi anche tu, si è cominciato con medicina odontoiatria, 77.000 candidati, solo uno su 8 riuscirà ad entrare, infatti i posti disponibili sono poco più di 10.000 per medicina e circa 900 per odontoiatria. In realtà i test d'ingresso sono da tempo, come si diceva, al centro di queste polemiche. Le organizzazioni studentesche vorrebbero che venissero aboliti perché violerebbero il diritto allo studio, parlano di dubbi di costituzionalità e se la Corte dovesse definirli anticostituzionali, il Codacons ha già annunciato anche una class action di tutti gli esclusi. Dubbi quindi sulla sostanza ma anche sulla forma. Le organizzazioni studentesche sempre infatti parlano di test confusi, domande assurde, ricordiamo quella clamorosa lo scorso anno sul grattacheca alla Sapienza di Roma. E lo stesso professor Remuzzi, che tra l'altro sentiremo fra poco Daniele, aveva provato a rispondere qualche giorno fa alle simulazioni dei test e aveva verificato che con quelle domande non sarebbe mai diventato un medico, e che medico poi è diventato. Dunque, come dicevamo, solo uno su 8 supererà oggi questo benedetto test di medicina, gli altri fuori, anche se avranno speso in media 55 euro per partecipare alla selezione, facendo finire nelle casse degli atenei pubblici 4,5 milioni di euro. Secondo i dati di scuola.net, l'ateneo più economico è quello di Padova, con soli 27 euro, mentre il più caro è quello del Molise, che ne chiede addirittura 120. E non mancano poi alcune stranezze davvero. Infatti le due università di Napoli, sebbene poi candidati vengano inseriti nella stessa graduatoria, per loro i test costano un prezzo diverso, in uno soltanto 50 euro si fa per dire, nell'altro ben 100 euro. L'ultima nota: domani toccherà agli aspiranti medici che affronteranno il test in lingua inglese, come dicevi tu, poi giovedì agli aspiranti architetti, lunedì prossimo ai giovani che invece vorrebbero diventare veterinari, e a loro ovviamente il nostro in bocca al lupo. Abbiamo inviato Anna Marino, dove ti trovi? Università di Medicina di Milano. Sì, buongiorno Daniele, buongiorno agli ascoltatori. Sono circondata da centinaia di giovani qui nel cortile della Facoltà di Medicina di Milano. Sul tema appunto ci sono stati anche qui, oggi si sono verificate domande ritenute di cultura generale, come tipo? La messa in fila di premi Nobel, o domande più centrate, dove si trova una certa ghiandola del corpo. E noi abbiamo anche registrato che per protesta ci sono stati, proprio contro il numero chiuso, ci sono stati dei flash mob all'ingresso, all'ingresso di medicina dell'Unione degli Universitari, che ha organizzato appunto in tutta Italia queste iniziative per protestare contro il numero chiuso, manifestando con dei cartelli di divieto d'accesso con su scritto la striscia bianca università. Abbiamo degli studenti proprio qui che possono testimoniare com'è andata. Federica, com'è andata? Ma credo abbastanza bene, speriamo in bene. Ecco, per quanto riguarda le domande più difficili, fattibili, secondo te sono adatte a un test appunto per la facoltà di medicina? La maggior parte erano abbastanza fattibili, a parte biologia, che era veramente difficile rispetto anche all'anno scorso. E sul numero chiuso? Il numero chiuso credo non sia giusto per tutti, perché dovrebbero dare la possibilità a tutti di farlo e poi dopo il primo anno scremare chi non riesce a dare tutti gli esami in tempo. Ecco, Matteo, le tue idee per quanto riguarda il numero chiuso, cosa ne pensi? Beh, per quanto riguarda il numero chiuso non sono d'accordo, perché penso che bisognerebbe adottare un metodo uguale a quello francese, cioè una totale ammissione degli studenti al primo anno, e tra primo e secondo anno una selezione, cioè bisogna dare la possibilità a tutti comunque di avere del materiale in mano, di studiare, poi se non è utilizzato a questo punto si boccia giustamente. A te com'è andata? ma penso sinceramente abbastanza male, specialmente per quanto riguarda anche per me biologia, perché le domande erano troppo sul particolare, non è generiche, in quanto l'argomento, cioè la materia comunque era molto, molto ampia, non dovevano essere così puntigliose. Sentiamo in ultima Arianna, sempre riguardo al numero chiuso. Allora, io condivido assolutamente il parere dei miei colleghi studenti, perché comunque è vero, nel senso che è molto discriminante il numero chiuso, in quanto non dà le stesse possibilità a tutti quanti di accedere. E le domande? Le domande io personalmente le ho trovate parecchio difficili, cioè io venendo da un anno di farmacia qualcosa di biologia e chimica sono riuscita a fare, però tendenzialmente erano molto difficili soprattutto per chi ha dovuto prepararsi da solo con gli alfa test o comunque in altri modi. Ecco, tanti si sono iscritti a più test proprio per aumentare la possibilità di passare, e dal Politecnico di Milano, dalla Facoltà di Medicina e tutto. Grazie Anna Marino, e dall'Università del Politecnico di Milano ci spostiamo a due ospiti che saluto, Laura Vizzotto e Giuseppe Remuzzi, vediamo se c'è Remuzzi. Ci sono. Il primario di nefrologia e di dialisi agli ospedali riuniti di Bergamo, dico bene, coordinatore della ricerca dell'Istituto Mario Negri di Milano, autore di centinaia di pubblicazioni. Remuzzi, ma per fare il dottore serve conoscere il taoismo? Questo se l'è domandato qualche giorno fa sulle pagine del Corriere. Oppure la pratica meditativa fondata sulla respirazione profonda? Sì, quella lì voleva essere una domanda di logica, che tra l'altro non lo era, perché la risposta era nella domanda, e qualcuno ha detto che non volevano sapere del taoismo ma volevano capire se un ragazzo ha la logica. In realtà io penso che noi dovremmo chiedere ai medici di essere capaci di trattare gli ammalati con cortesia, per esempio, di informarli sulle loro condizioni di salute, di rispettare le loro decisioni. Dobbiamo attraverso il test capire chi sarà capace di fare così. Nessuno insegna agli studenti a parlare con i malati. Remuzzi, abbiamo ritrovato Laura Vizzotto, che è presidente della commissione test e medicina alla Statale di Milano. Vizzotto, buongiorno. Buongiorno. Peccato che non ha sentito la nostra Anna Marino, che era davanti all'Università di Medicina. Molti dicevano che questi test, secondo molti studenti, sono troppo difficili. Risposta. Che ride. È tutto soggettivo. Non c'è facile, difficile. C'è quello che si sa e quello che non si sa. Remuzzi, cosa chiederebbe a Laura Vizzotto? Ma io chiederei di cambiare completamente il test di medicina. Intanto dobbiamo dare la possibilità a molte più persone di partecipare e selezionare eventualmente più avanti, se no rischiamo questi 90 che sono esclusi su 100, possono contenere delle persone straordinariamente brave per fare il medico. Io ho quella preoccupazione lì, non penso si possa immaginare di fare un test di medicina senza che ci sia nulla di inglese, che è la lingua della medicina. La cultura che loro hanno provato nei test che abbiamo visto finora è cultura degli esami di maturità di 60 anni fa. Il sistema è un sistema in cui uno può passare perché indovina che tra astrattismo, cubismo, decostruttivismo, surrealismo, impressionismo, quello che non è congruente con gli altri è decostruttivismo. Domande vecchie, mi sembra di capire, e domande anche non pertinenti. Laura Vizzotto, cosa dice? Allora, ovviamente tutto è perfettibile, ma dobbiamo essere molto pragmatici e concreti. Le risorse sono molto scarse, siamo in un tempo di vacche magrissime, risorse di persone, risorse di denaro, risorse di spazi, quindi bisogna essere molto concreti. Non possiamo ingannare degli studenti ammettendoli senza poter poi offrire loro una formazione corretta e adeguata. Ecco, quanto ai quiz, certo, ripeto, sono perfettibili, ma ritengo che la commissione ministeriale che in questi anni si è impegnata abbia molto migliorato. Quello che si vuole mettere alla prova è l'abilità deduttiva e logica dello studente e anche un certo background culturale che è alla base anche per il dialogo col paziente, per ispirare fiducia al paziente. Certo, con un test a quiz di due ore non si può testare a fondo la capacità di comunicare col paziente, questo lo faranno poi nel corso di studio. Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio innanzitutto Anna Marino che era all'Università del Politecnico di Milano, Giuseppe Remuzzi e Laura Vizzotto, abbiamo parlato quest'oggi in controluce dei test, polemica sul test di medicina, avete sentito anche gli studenti che hanno appena terminato il test, questo sarà il filo conduttore di Controluce. Interveniamo tutti i giorni come approfondimento del giornale radio su un fatto del giorno, inviamo i nostri colleghi sui territori per capire, per comprendere di cosa stiamo parlando e cerchiamo anche di approfondire qualcosa e capire qualcosa di più con ospiti e testimonianze. Siamo, lo ricordo, su Facebook, Italia in Controluce, il gruppo e la pagina, siamo su Twitter, la nostra mail è controluce@radio24.it. Vi saluto qui Daniele Biacchesi, a domani, alla stessa ora.